4 mattino. Buongiorno Simone, non capisco chiaramente questa polemica delle discoteche in Sardegna. Anche da noi in Toscana le discoteche erano bellamente aperte, eh? Le hanno chiuse il 16 d'agosto, quindi francamente tutto questo cinema sardo non lo capisco. Io spero che qualcun altro, cioè coloro che amministrano queste cose, sentano quelle urla e si decidano di non farli partire. Non è una questione di razzismo, non bisogna farli partire. Finché ci saranno navi che gireranno sul Mediterraneo disposte a raccogliere queste persone per portarle da altre parti, succederanno queste cose. Allora, sul primo punto, il cinema sardo, la mia impressione è che sulla Sardegna si sia concentrato una sorta di pregiudizio, soprattutto per la parte nord della Sardegna, ed è un pregiudizio, chiamiamolo così, contro la ricchezza, va bene? Così ci capiamo, contro i Briatore, contro quel mondo là, e quindi si è detto dalla Sardegna è partito il contagio. È una tesi accreditata anche nei giorni scorsi dall'assessore alla sanità del Lazio D'Amato. La realtà è che le discoteche l'hanno riaperte praticamente tutte, anche in Emilia Romagna sono state riaperte le discoteche, non è che sono state riaperte solamente in Sardegna. E in Emilia Romagna, sulle coste dell'Emilia Romagna, c'è un sacco di gente in vacanza, ragazzi, sulle coste della Romagna. Sul secondo punto, io devo ricordare ancora una volta all'ascoltatore che, come abbiamo fatto più di una volta, che tutti i dati e tutte le indicazioni ci dimostrano che, al di là di quello che si ritiene, perché io lo so che il senso comune ti direbbe, se ci sono delle navi nel Mediterraneo che cercano i naufraghi, allora le persone che partono cercano di partire perché sanno che qualcuno li salverà. In realtà questo non avviene, il cosiddetto pull factor è stato dimostrato dai numeri, ossia il fatto che si parte perché ci sono delle navi che ti raccolgono, non esiste. E se c'è, c'è in piccola parte. Queste persone partono per altri motivi, che sono la guerra, le carestie, le difficoltà economiche. Questo è. Partono per questi motivi. Quindi non sono le navi dell'ONG o le operazioni come Mare Nostrum a far partire queste persone, e sono altre motivazioni. Partirebbero comunque, e poi il resto è tutta un'altra questione. Cioè il come si affronta questa cosa è tutta un'altra questione. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 13 novembre, sono le 7:23 minuti e 30 secondi, e le aperture dei quotidiani sono molto dedicate al Covid, come potrete immaginare. Più chiusure nelle città, dice il Corriere della Sera. Natale, e qua ragazzi mi entrano pure sul tavolo, sulla tavolata di Natale. Cena con i parenti stretti, chi i parenti stretti non ce li ha, si farà Natale da solo, che dobbiamo fare. Regioni, nuova stretta, battaglia sulla Campania, il titolo della Repubblica. La Stampa, Di Maio, un'intervista a Di Maio che chiede subito nuove zone rosse. Il Quotidiano Nazionale sceglie le parole di Arcuri, a gennaio vacciniamo gli italiani. Vedremo, abbiamo una nuova scadenza da mettere in archivio. A gennaio partono le vaccinazioni anti-Covid, mettiamola là insieme a quella di Autostrade. Ospedale in fiera, sinistra sbugiardata, è il titolo del giornale che parla del fatto che appunto l'ospedale in fiera a Milano adesso è attivo ed è utile e serve. Fuochi a mare, il titolo del Manifesto, proprio sul tema dell'immigrazione. Quasi 100 migranti perdono la vita in due naufragi davanti alle coste libiche. La Verità prosegue il suo giro di inchieste sulla vicenda Open, la fondazione di Matteo Renzi, tutti i favori dei renziani a chi versava soldi a Open. Il titolo: Il Fatto Quotidiano la vede rosea, la vede rosea. Se va avanti così, niente lockdown, ci dice. I contagi frenano, l'Italia sta meglio di Francia e Spagna, non della Germania, la Gran Bretagna fa il record di morti. Libero, sulla Campania, Lombardia rossa, meno contagi, nella Campania gialla, più morti. Avvenire, il fai da te anti-Covid sulle varie ordinanze regionali, locali e via dicendo. Infine, il Sole 24 Ore, che apre sul tema delle banche, prestiti garantiti a rischio dalla banca centrale, l'allarme, credit crunch. L'editoriale di questa mattina è firmato dal direttore Fabio Tamburini, si intitola Campania, lo Stato batta un colpo. Ci arriveremo tra un attimo, perché poi alle 7.45 avremo anche ospite il sindaco di Napoli De Magistris, il quale aveva preannunciato iniziative clamorose per bloccare la cosiddetta movida. Magari ci anticipa qualcosa. Iniziamo come sempre da qualcosa di diverso, e molto di diverso al Covid faremo in questa rassegna stampa. Magari ci prendiamo un attimo di respiro. E la prima cosa è una vicenda che ci riporta, una questione che ci riporta 40 anni fa. Il Quotidiano Nazionale, pagina 12, Nino Femiani, il terremoto in Irpinia. Ricorrono i 40 anni tra poco, Hanno fatto presto, è il titolo, appena 40 anni, arriva un tetto per gli sfollati dell'Irpinia. 40 anni di distanza dal terremoto che il 23 novembre dell'80 devastò l'Irpinia, alcune famiglie di sfollati che ancora vivono nelle baracche avranno finalmente una casa. Oh, che bello, 40 anni dopo. Si tratta di nuclei familiari di Montella, in provincia di Avellino. Giovedì prossimo avranno un vero tetto sulla testa. La notizia ha dell'incredibile, se si pensa al fiume di denaro speso per la ricostruzione e al quasi mezzo secolo trascorso. Allora, i numeri di quel terremoto sono questi: 2.900 morti, 8.800 feriti, 280.000 sfollati, ma sono anche i numeri che ci raccontano di 50 miliardi di euro spesi negli anni che ancora oggi pesano sulle tasche degli italiani, lo sapete, accise sul carburante e opere incompiute o inutili. E ci ricorda qua Nino Femiani quello che è stato un classico esempio di come hanno funzionato, come funzionano in parte ancora oggi le cose in Italia. 40 anni, 27 leggi, 50 miliardi di euro. Perché tutto questo? Perché si allargò l'area del cosiddetto cratere con i fondi che furono in maniera clientelare dirottati su aree che non ne avevano diritto. Dai 36 paesi iniziali si arrivò alla bellezza di 687, ossia l'8,5% del totale dei comuni italiani che furono inseriti nel cratere. E dici, perché si spesero 50 miliardi di euro negli anni? Esattamente per questo motivo. Cosa ancora per questa prima parte della rassegna? Oh, torniamo su una nostra grande passione, sulla mia grande passione, che è Roma e i suoi dipendenti pubblici. Qua c'è gente che si mette le mani nei capelli in Campidoglio. Boom di congedi ai comunali, 1 su 3 apparenti invalidi, 1 su 3, ma è una cosa incredibile, ma non è. Al comune di Roma, ci racconta Lorenzo De Cicco a pagina 34 del Messaggero, quasi un dipendente su 3 dichiara di avere un parente invalido e per questo ottiene i congedi dalla legge 104, e certo a questo serve naturalmente. L'ultimo record sembra paradossale, dato che l'età media degli impiegati capitolini cala di anno in anno grazie al mix tra nuove assunzioni e prepensionamenti di quota 100. Ma incredibilmente le licenze 104 si moltiplicano. Oggi sono quasi 7.000 i lavoratori col permesso in tasca, tra vigili urbani, geometri e travè dell'anagrafe. Sempre più dipendenti, sempre più giovani chiedono e ottengono i congedi che in teoria dovrebbero servire ad assistere un familiare disabile. Allora, vi do un raffronto, Qua sfioriamo il 30%. Sapete quant'è nel settore privato? Ce lo ricorda sempre Lorenzo De Cicco nel pezzo. 3% le persone che possono usufruire della legge 104. E sappiate che non va diversamente nelle aziende partecipate dal Comune di Roma. Secondo l'ultimo report disponibile, diffuso nel 2018, per l'ATAC, che è l'azienda del trasporto pubblico locale di Roma, in 2.800 su 11.000 tra autisti, macchinisti e impiegati hanno il congedo per i familiari invalidi. All'AMA la proporzione è grossomodo la stessa. Non siamo noi a decidere se accordare o meno i permessi 104, dicono in comune, non possiamo far altro che accettare le decisioni dei medici. E qua apriamo anche il capitolo dei medici di quanto concedono questi permessi. Nelle indagini degli anni scorsi, ci ricorda Lorenzo De Cicco, c'è anche chi grazie ai giorni di congedo è andato in campeggio o a prendere il sole sulle spiagge della Calabria. E questo il racconto che ci arriva dalla meravigliosa macchina comunale di Roma. A proposito di chi è in vacanza e non ci dovrebbe essere, se volete una rappresentazione di quello che sta succedendo in alcuni ospedali del sud, potete pescare pagina 6 della Stampa, dove Valeria D'Autilia da Cosenza ci racconta quello che sta succedendo. Un medico a parlare un medico, una dottoressa Federica Messineo. Il pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza è allo stremo, si è trasformato in un reparto Covid, dice qui c'è gente che ha perso dignità, e però racconta anche questo: chirurgia generale a 18 unità in esubero e non capisco perché non vengano spostati, mentre personale di altri reparti è in ferie. Cioè, in piena emergenza Covid ci sono ospedali che mandano le persone in ferie. Siamo in guerra, nelle guerre, dice, bisogna richiamare al fronte. Tra l'altro a Cosenza succede qualcos'altro che ci racconta Valeria D'Autilia. La CISL Medici denuncia un guasto all'unico apparecchio che ha il compito di processare i tamponi di tutta la provincia, e quindi, dice il sindaco Rodolfo Gualtieri, si è fermato tutto. Questo vorrà dire che nei prossimi giorni a Cosenza non ci sarà nessun positivo. Perché? Non lo sapremo. Una pausa. Colgo volentieri il suggerimento di Felicia, che dice, parla anche dei dipendenti statali di Roma, dei comunali di Roma virtuosi, c'è anche questa realtà. Io sono perfettamente d'accordo, so che ci sono dipendenti statali e dipendenti del comune di Roma che sono virtuosi, sono bravissimi, fanno costantemente il loro lavoro, e se Felicia è una di queste dipendenti, le dico, si ribelli ai suoi colleghi che invece fanno cose di questo genere, si assentano dal lavoro in questo modo. Allora, vi avevo promesso che non avrei parlato di Covid, però un paio di cose ve le voglio dire. La prima è citare questo pezzo che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 8, di Rosanna Magnano, la nostra Rosanna Magnano, qua di Radio 24, la quale ci racconta che ospedali e ASL stanno chiudendo le porte ai medici stranieri. Cioè, incredibilmente, siamo senza, con difficoltà a reperire medici e infermieri, e però gli ospedali e le ASL stanno bloccando i medici e gli infermieri extracomunitari. Perché? Perché il decreto Cura Italia aveva aperto le porte del Servizio Sanitario Nazionale a medici e professionisti sanitari extracomunitari, ma in sostanza tutti i bandi di concorso che vengono fatti in queste ore li lasciano fuori, a meno che non siano soggiornanti di lungo periodo. Tutto questo accade a Bergamo, a Civitavecchia, a Matera, in Umbria, con il caso più eclatante in Piemonte, dove sono stati emanati ben 10 bandi non rispettosi della deroga per assunzioni legate all'emergenza riguardanti diversi profili come infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia e operatori sociosanitari. È un paradosso. È un paradosso, visto che per i nuovi posti letto mancano circa 5.000 specialisti, ci dice Rosanna Magnano. La questione delle discoteche, molto rapidamente la questione Covid, come vi dicevo, la questione delle discoteche perché? Perché dopo tutto quello che abbiamo raccontato, le inchieste sulle discoteche riaperte da Solinas e appunto tutto quello che si è detto, apprendiamo qualcosa di nuovo, ossia che prendo un pezzo del Messaggero a pagina 6 che molto ha dedicato a questo tema, il quale pezzo di Giuseppe Scarpa titola sì sulle chat dei gestori delle discoteche che si scrivono tra loro, mi dicono che ci fanno aprire, raccontano dei contatti con i vertici della regione, ma ci dice anche qualcosa di diverso e di importante, perché ieri la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per epidemia colposa. Nei giorni scorsi c'è stato il blitz della polizia negli uffici della regione Sardegna per acquisire la documentazione richiesta dai PM. E però ieri dal Palazzo di Giustizia è filtrata l'indiscrezione secondo la quale il parere del Comitato Tecnico Scientifico Sardo sarebbe stato favorevole all'apertura dei locali, e quindi se era favorevole il parere del Comitato Tecnico Scientifico, se le discoteche le hanno aperte altre regioni, basta, di che cosa stiamo parlando? Siamo alla questione autostrade e al il Corriere della Sera ci tira fuori qualcosa che potrebbe bloccare ulteriormente la trattativa tra Atlantia e la Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso non perché Atlantia si tirerebbe indietro, ma perché lo potrebbe fare la Cassa Depositi e Prestiti. E perché? Perché improvvisamente si scopre, visto che sono aperti una serie di procedimenti giudiziari, che Autostrade potrebbe essere costretta a risarcire il danno ad una serie di persone. E dovendo risarcire il danno, se tu ti compri Autostrade, sei tu che risarcisci il danno. E Cassa Depositi e Prestiti, come sappiamo, i soldi che gestisce sono i buoni postali del tesoro, raccolti, sono quelli raccolti da Cassa Depositi e Prestiti, e che andrebbero a pagare il conto eventuale dei risarcimenti. E quindi il rischio maxi risarcimenti, ci racconta il Corriere della Sera, pagina 14, starebbe facendo riflettere Cassa Depositi e Prestiti, perché penserebbe a un passo indietro. E quindi l'ipotesi è che si possa andare verso una dichiarazione di grave inadempimento da parte di Autostrade per l'Italia e quindi passare poi alla revoca della concessione. Però poi si vede chi se la va a prendere Autostrade con il rischio appunto di grandi risarcimenti che potrebbe dare in sede civile e in sede penale, non si sa. A pagina 16 di Repubblica invece troviamo tutte le manovre dell'ex amministratore delegato Castellucci, almeno secondo quello che dicono i magistrati, per rientrare in gioco. E tra queste manovre spunta un nome politico importante, o almeno non un nome, l'ipotesi di un nome, che è quello della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Sono delle intercettazioni che risalgono a 10 mesi dopo il licenziamento di Castellucci, che cerca partner per conto dei Benetton per salvare Alitalia. Bussa ad altre compagnie di bandiera, parla al telefono con Michael Eberhardt, amministratore delegato di Air Dolomiti controllata da Lufthansa. Dice: il ministro mi ha chiesto di vedermi stasera, siccome mi aveva chiesto di aiutarlo su Alitalia e se ero disponibile, se voi avete interesse, io lo vedo fra 2 ore. Eberhardt chiede: il ministro? E l'altro: sì, lei non fa in tempo prima, penso. Secondo quanto trapela in procura di Genova, si ipotizza che Castellucci parli di un ministro appunto dell'attuale esecutivo giallorosso, perché la telefonata è del 24 ottobre del 2019. Dato che dice lei, potrebbe trattarsi di Paola De Micheli. Come ricorderete, c'è stata una fase di trattative nelle quali il governo ha proposto, diciamo, ha ipotizzato una sorta di scambio, per cui diceva il Benetton: va bene, ci può essere un ragionamento se voi entrate in Alitalia, ci aiutate con Alitalia. Ben lo ricorderete quel momento. Prima di andare al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dopo il traffico, è su Napoli che vi porto con l'editoriale del Sole 24 Ore, del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, il quale inizia così: incredibile ma vero, ieri il Consiglio Comunale di Napoli, che doveva decidere l'approvazione del bilancio, è saltato per mancanza del numero legale. Il sindaco De Magistris è intervenuto gettando acqua sul fuoco e annunciando la riconvocazione per lunedì prossimo. Resta il fatto che in un momento drammatico di emergenza sanitaria il Consiglio Comunale è sfumato, dando l'ultima conferma che la situazione a Napoli e nell'intera regione Campania è come minimo di confusione assoluta e di crisi istituzionale, a partire dalla totale incomprensione tra De Magistris e il presidente della regione De Luca, a cui si aggiungono le difficoltà di entrambi nelle relazioni con il governo centrale. E qua è il grande tema: perché la Campania è zona gialla? Traffico. 4 mattino. Buongiorno a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Ha preannunciato azioni clamorose lei per il fine settimana per fermare la cosiddetta movida. Dio, che brutta parola. Però la movida, chiamiamola così, così ci capiamo tutti quanti. Che azioni sono, De Magistris? No, non è nella direzione che dice lei, perché purtroppo movida non ce n'è più. Ma dobbiamo essere realistici se vogliamo fotografare le nostre città. C'è stato il fine settimana scorsa un po' il festival dell'assurdo, perché solo chi non conosce le nostre città non capisce quello che accade di questi tempi. Accade che il fine settimana scorsa c'erano a Napoli 23 gradi, Napoli è zona gialla, sì. Zona gialla significa che le persone possono uscire, se uno deve rispettare regole, deve comprendere regole. Regole significa zona gialla, puoi uscire con le precauzioni, mascherine eccetera, puoi andare al ristorante, i negozi sono aperti. Una città come Napoli sono uscite qualcosa come, credo, 700-800 mila persone. E il dibattito in Italia, Napoli come altrove, è stato perché il sindaco non chiude il lungomare, che ricordo a chi non è napoletano, sono 4 km e 300 metri, in cui ci sono decine di migliaia di persone che camminano, e i ristoranti. Quindi il poliziotto si sarebbe dovuto mettere tipo semaforo, fermava quelle 60-70 mila persone e chiedeva ad ognuno se andavano al ristorante a fare due passi e si formava un assembramento e non una passeggiata. Sì. Allora, se il contrasto al Covid è questo, è meglio che ci mettiamo una pietra sopra, perché è evidente, siccome a Napoli invece purtroppo la situazione è molto grave, ecco, voglio concludere su questo, perché la situazione non è da zona gialla, questa è la mia opinione, è diversa, e allora a questo punto mi chiedo, dopo un mese che si discute di Napoli zona rossa, professor Ricciardi, il presidente Luca, cioè tutti lo hanno detto, lo dicono, l'hanno sottolineato, perché il problema diventa il cittadino che cammina, il poliziotto non controlla, il sindaco che non chiude una strada, se io chiudo il lungomare le decine di migliaia di persone andranno a Piazza Plebiscito. Sì. E quindi lei che fa, De Magistris? E quindi farò un provvedimento che pubblicherò oggi nel primo pomeriggio concertato con la Giunta, tra qualche minuto vado dal prefetto a rappresentarglielo, nel quale evidenzierò questa situazione dell'assurdo, metterò in campo delle azioni per cercare di contenere l'assembramento, ma per dimostrare al governo nazionale, al governo regionale, che dopo 20 giorni di mie sollecitazioni ancora non ci dicono se la realtà è uguale ai dati. Ma quali sono queste azioni, De Magistris? No, io lo dico. Guardi, come non me lo dice? No, perché io sono abituato a commentare i provvedimenti quando li metto. Se mi chiama oggi pomeriggio lo commentiamo. Un'idea di massima, ma io oggi pomeriggio non sono in onda. Mi dia un'idea di massima, De Magistris. Allora, gli dico questo, sicuramente quello che non sarà, non chiudo singole strade. Ecco. Ok. E questa, quindi questa. Do una traccia. Ok. Chiude tutta la città? No. Diverso. Faremo un lavoro tutti quanti insieme per intervenire dove si formano gli assembramenti. Ok. Tutti quanti insieme chi? Tutti quanti insieme chi? Le persone che collaborano da sempre, forze di polizia, prefetto, sindaco e cittadini. Perché il cittadino non è il colpevole, consentitemelo, di tutta questa storia. Invece quando passa l'idea che le persone che camminano diventano i colpevoli, altra cosa sono gli assembramenti, quelli anche che pure si sono visti a Napoli come altrove, di persone che se ne fregano, stanno senza mascherine, pure ci sono, però le devo dire la verità, sono una estrema minoranza. De Magistris, lei pensa che la zona rossa a Napoli e in Campania non sia stata dichiarata per paura di rivolte, come tra l'altro scrive oggi anche il nostro direttore Fabio Tamburini? Guardi, non lo so, qua le interpretazioni possono essere tante, una è questa, perché lo annunciò il presidente della regione in modo roboante, voi lo ricorderete, una quindicina di giorni fa, e pochi minuti dopo, siccome fu una notizia che suscitò scalpore perché non era accompagnata da informazioni adeguate, da misure di ristoro, creò quello sconcerto. Questa è una lettura, però consentite, una lettura un po' sconcertante, perché poi Napoli la maggior parte delle manifestazioni sono pacifiche, se la situazione sanitaria è drammatica tu basta che lo spieghi, si devono fare più restrizioni, contestualmente prevedi ristori e si va avanti. E sarebbe De Magistris una concessione alla criminalità pazzesca, anche alla criminalità di piazza, alla violenza di piazza, ma pazzesca, no? Ma tra l'altro sono pochi, guardate, a Napoli sono fatte, oggi ce n'è un'altra, ci sono state penso non meno di 20 manifestazioni, dai bambini alle mamme, come tutte pacifiche, quella è stata una particolare in cui alcune frange violente si sono infilate in un corteo originariamente pacifico. Un'altra, però non è l'unica lettura del perché non la fanno, ci possono stare anche altre letture, cioè una può essere che i dati che noi leggiamo ogni giorno di posti letto disponibili, di terapie intensive disponibili, di modello Campania e altro non corrispondono alla realtà che noi ogni giorno vediamo, perché la viviamo la città e la conosciamo, e quindi probabilmente poteva servire a qualcuno il racconto. De Luca fornisce dati falsi. De Luca fornisce dati falsi, dice lei, De Magistris. Se mi fa dire così mi fa prendere una querela. Io sto dicendo una cosa diversa, cioè che i dati che io leggo, se lei va sul bollettino di ieri, però lo pensa. E vede terapie intensive centinaia e centinaia, posti letto oltre 3.000, va a farsi un giro agli ospedali, sente il racconto dei medici, raccontano che non ci sono più posti. Allora, su questi numeri bisogna capire, come un altro dato, sono numeri di oggi o sono numeri di 20 giorni fa? Sono numeri realistici o sono numeri sottostimati perché non li riescono ad elaborare, perché magari il personale è poco? Quindi non sempre dire falso significa che tu stai accusando qualcuno e lo fa apposta. Io non ho elementi per dire uno faccia apposta. Io ho dubbi che i dati, quelli che leggiamo sui bollettini, non corrispondono purtroppo alla drammaticità della situazione reale. Questo è un gap che chi lo può colmare? Sì. Lo dovrebbe colmare la regione, perché io parlo col ministro, mi dice noi ci affidiamo alle regioni. Bene, però questo vale fino a un certo punto, perché se noi ti segnaliamo e ti diciamo governo, c'è un problema Napoli, c'è un problema Campania, gli strumenti per approfondire se il dato formale equivale al dato empirico, dopo 8 mesi di pandemia uno si aspetta una risposta più precisa della data. De Magistris, rapidamente, che siamo in chiusura. Di Maio dice per la Campania, per Napoli ci vogliono esercito e protezione civile, concorda? Per cosa? Per la gestione della parte sanitaria, naturalmente. Allora, se è così, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'organizzazione politica della sanità campana. E lei sarebbe d'accordo, eventualmente? Guardi, che le devo dire? Se la situazione è talmente grave che c'è bisogno, come dire, dei medici dell'esercito, è chiaro che concordo. Se l'esercito significa per controllare la gente che cammina per strada, mi sembra una misura assolutamente inappropriata. Dobbiamo chiudere. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, per essere stato con noi. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli, commento di giornata. A dopo.